Capodanno. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Ebbene sì, non vi molliamo qui, non più! Mi puoi questa la canto tutta. Mare farracuda, sì ma ballar nuda, san san. Sì, ma le pistol. Sì, vabbè, parole a caso. Sì, le caso di Veronica Gentili. Sì, nelle scura. Non è la luna. Signori, siamo qui, siamo qui. Il meglio dei funamboli, sì, speciale Miguel. Dei funamboli. Ciao ragazzi. Ciao, buon anno. Signore, adesso parte Despacito, Leonardo, tra poco. Ma Maracaibo la cantava sempre Jerry Calà nei film di Natale. Di Natale. Come la siamo uno Smilers. No! Sì. Non c'è fine inizio d'anno che non possano cominciare senza Despacito. Leonardo, io non capisco questo tuo accanimento nei confronti di Despacito. E intanto salutiamo tutti gli ascoltatori. Ebbene sì, siamo i funamboli, siamo in onda anche oggi. Vi rendete conto, per tenervi compagnia un'oretta? Sempre. Con che animo, con che spirito per il 2018? Ma intanto lo spirito positivo, sempre. No, scusate, no, non saltiamo ottimisti. Le tappe. Un bilancino del 2017, rapido, rapido. Buono o cattivo? Direi buono, dai, su. Dai. Buono. Tu, ha visto sbocciare i funamboli il 2017. Beh, io ho iniziato a lavorare qui a Radio 24 tutte le mattine, mi devo alzare molto più presto di prima. Allora, quindi insomma, quindi tendenzialmente male, diresti meno. Tu. Poi ricordiamo, insomma, è l'anno dell'amore, Leonardo, e l'amore... Ah beh, l'amore è destinato a finire sempre e comunque. Bene, questo era importante, questo, dirlo, perché a cavallo tra un anno e l'altro va ribadito. Allora, signori, siamo qui in questo speciale dei funamboli. Leonardo, so che ti incuriosisce. Sì, vorrei che tu facessi un bilancio, un resoconto di alcuni degli articoli, dei titoli degli articoli più divertenti che hai trovato, per esempio, quest'anno nel 2017, ecco, conclusione, sì, dell'anno. Ma guarda, io tra l'altro voglio ringraziare per questo anche il mio amico di non leggerlo col suo account Twitter, perché ci dà sicuramente tanti spunti. Senti Veronica, questo articolo uscito sul Corriere Adriatico: un Vai. Bimbo alla maestra dice un ladro mi ha rubato i compiti. Questo titolo è vero. Questo no, che giornale era? Corriere Adriatico. Ma c'è anche il Mattino di Padova: scippata scippa lo scippatore. Che non è vero. Ma come no? C'è questo anche... sembra uno scioglilingua più che questo altro. È il Corriere delle Alpi: tenta suicidio sui binari ma il treno non passa. Questo è un classico, la battuta era: suicidio sui binari, muore con 3 ore di ritardo, per esempio. Questo era il super classico. Ma c'è anche la Gazzetta di Reggio: musica alta, anziana picchia un gruppo punk intero, forse anche il batterista è riuscito. Quella avrei voluto vederla, la scena. Eh sì, senti qua, Nuovo Quotidiano di Puglia: il boss ricercato dai carabinieri era ancora in cella, è giallo. Questa però forse è la migliore in assoluto, dal Mattino di Padova: ottantenne fa sesso con la badante e lei ha un infarto, lei, capisci, lei la badante. Per questo io spero di invecchiare ancora di più e rapidamente, così potrò avere delle prestazioni migliori di quelle che ho al momento, diciamo. E vuoi l'ultima? Da Brescia Oggi: insultano i carabinieri pensandoli maschere di carnevale. Anche questa non è male, chissà com'è finita questa vicenda. È così. Allora, no, invece io a Capodanno, se Peter Bescapè in regia, vorrei... Perché a Capodanno si festeggia sempre, che è bello, una cosa anche buona e giusta per tutti, un po' di allegria. A me però... Un po' d'ansia. Un po' d'ansia, sì, infatti a Capodanno mette sempre un po' di tristezza quando lavoro. Ecco, siamo arrivati alla tristezza, alla fine gira e rigira. Tu hai detto ansia, hai cercato di introdurre un concetto nuovo, ma poi si riassume tutto in tristezza. Si ritorna lì. Ma perché io a Capodanno, qualche anno fa, ho fatto un viaggio da solo, che è una cosa inusuale, no? Partire l'ultimo della l'anno, andare a fare un viaggio da solo a Capodanno mette anche un po' di tristezza. Vabbè, un pochino sempre. Quando parti da solo hai una sensazione strana, a Capodanno soprattutto, un po' di euforia mista a malinconia. Dopo un'ora sei felice, ti faccio una cosa diversa dal solito. Dopo 2 ore un po' malinconico. Dopo 3 ore telefona Radio Maria e ti deprimi ancora di più. E la solitudine e la fame, forse più la fame della solitudine, ti fanno fermare in autogrill a devastare il tuo stomaco. La fame non è una buona consigliera. Ti fa scegliere cose che a prescindere sai già che ti fanno male, perché da sempre le cose buone fanno male. Pensate che bello se Dio avesse creato un mondo dove l'insalata sazia, dove il riso in bianco soddisfa, dove i panini McDonald's sono cardiotonici. Invece no. Dio ha creato l'insalata russa, le lasagne, il polpettone, li ha messi lì nel banco frigo del supermercato, ma poi ha detto: attenzione, non mangiare i frutti dell'albero del banco frigo o vai all'inferno. È il girone dei golosi, in cui, lo dice Dante, i golosi sono condannati a strisciare per terra come vermi nel fango, flagellati dalle intemperie per l'eternità. Secondo me Dante è stato troppo vendicativo, Beatrice non gliel'ha data e lui per ripicca manda tutti all'inferno, tanti, anche quelli che amano solo la buona tavola. Io ogni volta che mangio la mortadella ci penso. Ogni fetta di mortadella sono almeno 3.000 anni a strisciare nel fango nel girone dei golosi. Quindi quando vado al centro commerciale a fare la spesa ci penso, perché il centro commerciale è tentatore. Fuori dal centro commerciale dovremmo mettere la scritta: attento, Dio ti guarda. Più il centro commerciale è bello, più ti tenta. Quello bello si riconosce fin da quando prendi il carrello, perché il carrello va dritto, alle ruote oliate, a volte alle marce. Li ho visti carrelli con 6 marce al manubrio computer di bordo. Per prenderli invece la monetina devi mettere la carta di credito. I discount invece hanno i carrelli con le ruote o bloccate o che tirano da una parte. Li producono apposta già difettosi, perché al discount risparmi ma devi soffrire. Nei centri commerciali più belli c'è anche il punto di assistenza carrelli. Se c'è qualche problema fai il pit stop e riparti in 8 secondi. Sei pronto a consumare più che puoi. Ma il centro commerciale è tentatore, e lo dimostra il fatto che la pubblicità, per pubblicizzare i prodotti in mezzo allo scaffale, ecco, per fare quelle pubblicità si usa sempre il sesso in televisione, che c'è ovunque tranne che nei prodotti per tutta la famiglia. Nei prodotti per la famiglia il sesso non esiste, c'è solo morbidezza. E i figli porta la cicogna, che poi si ferma con tutta la famiglia a fare merenda. E nei tempi di crisi la cicogna a merenda se la mangiano. È per questo che si fanno meno figli, perché le cicogne hanno paura a entrare nelle case a lasciare il bambino. Invece le pubblicità dei panettoni evocano sempre famiglie e genuinità, ma quell'atmosfera genuina finisce quando torni a casa e guardi quello che hai comprato. A volte la confezione è più sana di quello che c'è dentro. Però io quando sono in viaggio mi fermo sempre a mangiare in autogrill. Gli autogrill sono il vero ristoro viaggiatore, perché oltre al cibo puoi trovare tutto quello che ti serve, dal dentifricio ai CD, di cantanti morti da così tanto tempo che non ricordano più neanche i parenti. Quando viaggio verso il mare io mi fermo sempre nello stesso autogrill, nelle Marche. E quando finalmente arrivo alla cassa e chiedo il panino, la cassiera mi dice: gli aggiungo anche spremuto d'arancia al caffè che famo il menù completo? No grazie, volevo solo il panino, un bicchiere d'acqua. Gli aggiungo anche un gratta e vinci e andiamo a fortuna? No grazie, solo il panino e l'acqua. Gli aggiungo anche un biglietto a Lotteria Italia, primo premio 5 milioni? Gli aggiungo anche un cane che hanno abbandonato in autogrillo? No grazie, volevo solo un panino, una rustichella. La rustichella è finita, gli do un bufalino che è avanzato settimana passata, a vederlo lì tutti sti giorni da solo sul letto mi mette una tristezza infinita. Per me il modo migliore di festeggiare il capodanno è sempre in autogrill con la cassiera marchigiana. Il nostro Leonardo Manera. Io ci metto pure il cagnolino che è rimasto lì nell'autostrada. Allora signori, adesso dobbiamo dare un attimo alle informazioni sul traffico. Ma sai che è bello sentire Veronica ridere, è una bella risata Veronica. No, ma certo, grazie. Solo la risata è bella. Ma perché sempre? Ma anche nei giorni di festa sei proprio... Ma no, era lui, sembrava che il tono fosse quello. Lo sai che per me sei splendida, è Leonardo che è sempre... Ecco che scarica su di me. Allora però vogliamo salutare, come nello speciale di Natale sono venuti a ritrovarci Daniele Ceva, eccoci qua, buongiorno. Rieccoci. Buongiorno a tutti. E abbiamo mantenuto la promessa, perché siamo un po' buonisti. Ratko, il nostro amico Rom. Buongiorno. Continua la nostra campagna di accoglienza. Oggi sono triste come uno coccodrillo davanti a vetrina de Gucci. Una tristezza unica. Perché? Perché oggi sono 22 anni che io sono venuto con... No, perché sono... Però mi ricorda quello... Dopo vi racconterò. Quando vuoi ti racconto come adesso, sono arrivato. Adesso no, ci racconti subito, no? Come sei arrivato. Subito. No, il traffico. Poi, mamma mia, sei incupito. Triste, il è un anniversario, Gucci. Ogni volta devo bere, io bevo. 30 secondi e poi ci dice tutto. Mamma mia, Rat, adesso dobbiamo tirargli su di morale. Ci proveremo. Questa Veronica non la canti, eh? Non saprei, però la sto ballando, giuro. Attenzione la samba! Allora, però qua c'è tutta allegria, ma Ratko ci ha gettato un po' nello sconforto. Il nostro amico Rom. Ci ha detto dei coccodrilli. No, è triste perché sono 22 anni che io. Non perché sono arrivato, sono felice. Appunto, sono felice di essere in Italia. Ma se sono... no, può anche andare. No, ma no, no. Alessandro, no, no, Alessandro, no, non si invitano le persone a casa e poi ci si comporta così. Ratko, parla pure a me. Ma sono triste come un film polacco su circo. Quelle cose tristi, pesanti, sai. Pesante, sì. Ma sì, io sono uno profugo di guerra. Quando, sai quando c'era la guerra dei Balcani? Certo. Quando si apriva Balcani c'era guerra, ti ricordi? Sì, sì, sì. E allora io ho dovuto scappare di Montenegro e arrivare qua in Italia per me è stata una tragedia. Ho passato di tutto. Io ho dovuto schivare colpi di pallottole e di esercito croato. Oh. Colpi di mortaio, di bombardamenti, di serbi. Bombardamenti NATO, perché neanche voi ci avete fatto mancare una cazzo di niente. È vero, è vero. Infatti la città dove sono nato. Finalmente abbiamo un cinema all'aperto grazie ai vostri bombardamenti. Il cinema era chiuso. Vabbè. Però io capisco che voi questo fate per portare pace, è giusto, no? Anche se portare pace con bombardamenti, no, Milan? È un po' come curare stitichezza con Vinavil, ma è giusto che... Il paragone va bene. Però sono arrivato qua in Italia e devo essere sincero, ho trovato... Lavoro in un cantiere edile italiano e rischi molto meno vita a fare tip-tap in un campo minato di Bosnia che lavorare in un cantiere edile italiano, perché come straniero, senza documenti, senza niente, ma sai come ci trattavano? Eravamo tutti stranieri, tutti, anche il capo cantiere, perché era di Bergamo, chi cazzo capiva quello che diceva? Fanculo, compra una consonante. Io, ma giuro, i primi 3 mesi pensavo che era musulmano, non riuscivo a capire quello che come parlava? Sembrava il motore di mia barca quando prende il sacchetto di nylon. Sì. Allora, no, poi c'era la barca, ma tua? Sì, è mia barca, mia. Ho comprato con i miei risparmi, con soldi dei portafogli. Non so di chi, ma dei portafogli. perché ho fatto battute per fare felice te, che è Capodanno. Dai, Milan. Certo. Allora, vedi, adesso insomma, eravamo tutti stranieri, non ci si riusciva a capire. Allora ci hanno detto, se volevate comunicare, dovete fare corso di italiano. Sia io che capo cantiere del Bergamo abbiamo fatto insieme il corso di italiano. Bene. Eravamo compagni del banco, io prestavo lui righella, lui mi gomma di cancellare. Ho insegnato a lui fare E maiuscola, che non è facile, italiano, e così. Poi, finito il corso, ognuno ha ripreso sulla strada, lui è tornato a fare cantieri, manovale. Solo che uno giorno ero con mia carriola e mi cade un omattone vicino alla mia testa. Ho pensato, ma se questo battone cade in mia testa fa uno buco che fa male. Allora sono andato di capo cantiere, mai conoscevo, ho detto: Erminio, ho bisogno di un caschetto. Giusto. Lui si è messo a ridere, mi guarda, fa, ma mi ha detto: guarda che in Italia è dai tempi di Raffaella Carrà che non si usa più caschetto. Capisci che risposte ci davano? Se uno di noi si faceva male, tu non potevi andare all'ospedale e dire che avevi fatto male al lavoro, perché ti lasciavano a casa te, lasciavano a casa tutti. Dovevi dire che era stato incidente domestico. Incidente. Non avevo neanche casa, però avevo incidente domestico. Tu arrivavi là più morto che vivo, con flebo attaccati in macchina. Il dottore prendeva cartella clinica, diceva: allora vediamo, signor Ratko Udovič, lei ha uno polmone perforato, hai 3 costole rotte, poi ha frattura di femore, perone, radio, autoradio. Quest'occhio da colore, anche da numero 1, 2, 3, non è neanche suo, cosa combina? Incidente domestico. Ma com'è possibile? Stavo facendo vitello tonnato, dottore. Ma cosa sta dicendo? Ma com'è possibile? È impazzita maionese e mi ha spinto giù per scale, ma che cazzo vuoi dire? Allora dopo 5 anni così ho detto basta, sono andato di capo cantiere e ho detto adesso o mi fai uno contratto o io giuro che ti denuncio a Gabibbo. Al Gabibbo? Sì, perché in Italia denuncia Gabibbo fa più paura che denuncia autorità. Sì, questo è vero, questa mi sembra un'ottima sintesi. Infatti lui mi ha detto no, te prego, denuncia mia INA, i carabinieri, a finanza, no pupazzo no, ti do quello che vuoi, faccio uno contratto con 13°, 14°, ferie pagate. Quando mi ha detto queste cose Milan, ma che tristezza, ma io ero felice, ma come uno testimone di Geova davanti al citofono con 300 nomi, ho detto dai, fammi questo bello contratto. Lui mi fa, guarda, faccio subito, se per piacere mi dai il tuo permesso di soggiorno. Ma detto, dai, non prendere per culo, sai benissimo, ci avete preso qua tutti perché non abbiamo permesso di soggiorno. Però per legge italiana, se tu non hai permesso di soggiorno, non puoi avere uno contratto di lavoro. Va bene, ho detto, non è problema. Il giorno dopo vado all'ufficio immigrazione, vado, faccio una coda lunghissima, chiedo se per piacere mi danno un permesso di soggiorno e fa certo, se mi fa vedere il suo contratto di lavoro. Ma scusa, fammi capire questa legge, perché lui non mi può fare contratto perché non ho permesso. Vengo da te e non mi può fare. Capisci che non è normale queste vostre leggi? Non ha senso. È come se uno, per partecipare a una gita degli orfani, deve avere permesso firmato da genitori. Effettivamente, è un po'. Vabbè, contraddizione. È un po' l'uovo e la gallina lì. È una tristezza di storia. Caro Ceva. Voi non sapete che Daniele Ceva, fra le altre poche qualità che ha, ha anche quella di essere autore televisivo. Ah, attenzione. È venuto anche a proporci dei format possibili per il prossimo anno, perché insomma la televisione fa sempre più o meno le stesse cose, format che vengono ripetuti per anni. Invece Ceva, che è un grande creativo, ha una serie di format ma innovativi. Soprattutto in questo periodo che noi siamo abituati, periodo natalizio, di Capodanno, così, a vedere una poltrona per due. Sì. Poi c'è Asterix. Un po' di novità, una ventata di novità. La principessa Sissi. Vorresti cambiare i palinsesti. Ma vorrei cambiare i palinsesti. Sono anni che propongo queste mie idee televisive. Ad esempio, c'è questo nuovo filone di documentari che stiamo facendo, documentari storici. Ne ho uno sulle festività durante il ventennio fascista. E iniziamo con la prima puntata, che si intitola "Quando c'era lui, i trenini di Capodanno erano puntuali". Questa è la prima. Direi che cominciamo male, Ceva. Malissimo. È una delle peggiori che ricordi. In effetti forse a vedere un documentario sul fascismo a Capodanno e a Natale non è bellissimo, però ne abbiamo tanti altri. Ad esempio abbiamo questa serie medica che si chiama Medici senza palpebre. Questa è molto interessante. Ce Medici senza palpebre sono questo ospedale dove i medici sono tutti senza palpebre, e quindi qualsiasi patologia, anche la più leggera, un semplice raffreddore, diventa motivo di ansia, perché loro ti dicono vada tranquillo, ma te lo dicono con questi occhi spalancati, eccetera. Questo è un format innovativo, meraviglioso. Poi abbiamo Manera è particolarmente appassionato di questo, che gliel'ho fatto vedere, si è divertito tantissimo. È artificieri daltonici. Questo non è male. Cioè, ho già intuisco daltonici. Beh, cosa devono fare? Niente, sono artificieri daltonici. Sì. Quindi c'è questo momento di ansia in cui hai due minuti per salvare il mondo, taglia il filo rosso. Esatto. Solo che loro sono daltonici. Tra l'altro, la serie daltonici, ce n'è un altro, un altro anche, che è razzisti daltonici. Cioè, sono questi che picchiano un nero, ma che non è nero. È un albino, e fa molto divertente anche questo. Beh, insomma, divertente adesso, vabbè. Altri, ce ne sono altri, ad esempio questo, corpi donati alla comicità. Sapete che sono, scienziati che donano il proprio corpo alla scienza per curare le malattie e quant'altro. Io, in quanto comico, vorrei donare il mio corpo alla comicità, e quindi abbiamo fatto questa serie in cui delle persone hanno deciso di fare questa scelta di morte, diciamo. E abbiamo, nella prima puntata, c'è questo caso in cui una persona, un comico, dovendosi far cremare, si è fatto prima imbottire il corpo di mais da popcorn, e quindi la cerimonia diventa ovviamente molto allegra, lieta e felice. I bambini soprattutto si divertono a vedere questi popcorn uscire da ogni orifizio. C'era anche appassionati di appassionati, sì, questi appassionati che si appassionano a vedere altri appassionati, tipo tu, Milan, sei davanti alla televisione che sostieni il Milan, e non so, l'appassionato di appassionato ti incita a tifare di più. Bello. O meno, insomma, questa cosa. Quindi il format rappresenta questo spaccato. Poi, il meta appassionato. Esatto. Poi c'è appassionati di appassionati di appassionati, che però lo presenteremo il prossimo anno. Meta dopo. E si può andare avanti così, Si può andare avanti così all'infinito. E poi abbiamo uno per appunto questo discorso sempre sulle religioni, per cercare di trovare momenti di condivisione. Una serie che riguarda i musulmani, sono musulmani senza il senso dell'orientamento, che sono questi musulmani che pregano rivolti verso il Vaticano. Un po' capita, dell'orientamento. Un po'. Dopodiché, non lo so, ne volete altri? L'ultimo. Se proprio, sì. Poi magari teniamo altri per dopo. Allora, l'ultimo potrei proporre questo: sequestratori appassionati di atletica. sequestratore a passaggio. Come si svolge? Si svolge così. Allora, praticamente una sorta di reality dove ti, non so, ti rapiscono questo gruppo di sequestratori, ti rapiscono il figlio e se lo vuoi rivedere devi, che ne so, saltare i 4,20 metri o fare i 100 metri in 8 secondi e 40. Quindi si filma tutto il momento della preparazione. Ne posso dire un ultimo per i bambini? Per i bambini, insomma, abbiamo tanti programmi con i bambini. Io, questo è un reality, una sorta di grande fratello. Sono 12 bambini messi dentro una casa e si chiama Animali da colorare, quindi tipico per i bambini, un classico. Questi 12 bambini chiusi dentro una casa, ognuno con un pennarello colorato in mano, e devono cercare di colorare una tigre viva. Questo, diciamo, che è un formato un po' cruento, vabbè, forse. Però, vabbè, ne vedremo altri. Ma attenzione, perché è venuto a trovarci. C'è un'irruzione qua. Sprecacenere donato. Mamma mia, lo conosco molto bene. Lo conosco oggi è molto veramente bene. Un caos qua dentro. Donato. Sono un bravo ragazzo. E siccome che è l'ultimo dell'anno, sono venuto a leggere una email alla mia ex fidanzata Marilena, che mi ha lasciato perché diceva che non ero abbastanza bravo a fare le coccole dopo l'atto sessuale. Il problema è che con me faceva le coccole con gli altri l'atto sessuale. Cosa dice Mina? Non sta qui a tonizzare sui problemi degli altri, schifoso cane. No, non che vieni qui a deridere le persone per bene, calmo, come me. Mina! Calmo. Cerchiamo veramente l'ultimo dell'anno. Dai, almeno in questi giorni. No, cerchiamo di. Marilena, ti scrivo per dirti che da quando ci siamo lasciati prendo tutti i giorni Viagra, perciò sono sempre pronto per l'amore, anche se qualcuno che sono un po' troppo fasso, dilatato, tutto rosso, le macchine per strada si fermano come al semaforo perché sono tutto rosso. Ah. Lo sai se sei ancora Mina? No, sempre a tonizzare sui problemi delle persone. Torna a casa, no. Non che stai qui a tonizzare a prendere le persone. Alessandro, stai zitto, da mio cugino Mina, no, anche tu Veronica, occhio, perché no, per carità. Però mi mancano le cose che facevamo insieme, come quando andavamo al cimitero a rubare i fiori che poi portavamo a cena, così quando uscivamo dalla pizzeria li avevamo già e non venivano i pakistani per venderci i fiori che avevano rubato al cimitero. Ah, ma che bella storia. Lo sai, da dire sta qui da Roma anche gentile mi fai schifo come persona. Non vieni qui sempre di le cose gentile, è anche una donna. No, mi metto a fare scudo, no, faccio qui a Marilena. Noi ci siamo lasciati perché quando facevamo l'amore il vicino di casa si lamentava che facevamo troppo rumore. Allora mi hai detto: provo a vedere se è vero. Se è andata a fare l'amore col vicino di casa, io sono stato lì a sentire se c'era troppo rumore. E io mi sono dispiaciuto perché col vicino facevi molto più rumore che con me, però almeno il vicino non si è più lamentato. E poi ti siamo lasciati perché quando faceva l'amore tu dicevi voglio di più, ma io per i 70 euro non ti potevo dare. Mamma mia, ma sarei bravo tu a fare l'amore, mica che tutte le donne ti lamentano, dico che fai schifo come persona. Ma chi lo dice? Se quando ero tonde canederlo. Abbassi i toni. Canederlo. No, non ridere anche tu che gli dai. Abbassi i toni. Canederlo. Spacco la testa, canederlo. Bello, spacca la testa. Canederlo, calmo, di Milano. Calmo. Ed ho una bella notizia. Al centro commerciale Arcobaleno, tutti i colori del shopping, ho conosciuto una fotografa femmina e l'ho portata in un motello. Era una fotografa femmina che contemporaneamente era anche un uomo. L'ho capito perché anche quando era nuda continuavo a sentire il tripiede. Sì, il tripiede. Ma dai, non iniziare tu, schifoso cane. Vieni qui a dire le cose. Ma torna a via Padova, vaffanculo. Ma non lo devi dire qua per essere insultato. Alessandro, sa anche dove abiti, eh? Sì, sì. Marilena. Quando ero innamorato era tempo di farfalle nello stomaco. Quando ero solo era tempo di sciarpe intorno al cuore. Quando ero con te era tempo di lime sulle corna. Va bene. Va bene, dai, sprecacenere, stia tranquillo un po'. Mi schifo come persona. Dobbiamo fermarci un minuto e rientriamo tra un attimo. I funamboli di Capodanno. Senti come pompa, pum, pum, pum, pum, pum, pum. E qua siamo a David Guetta, eh. Devo dire una cosa, devo fare una confessione, Veronica e Leonardo. Vai. Quest'anno ero a Ibiza a giugno alla opening season all'Ushuaia di David Guetta. Non ci posso credere. Pum, pum, pum, pum, pum. alla tua età. Tu non lo vedi, ma sta saltando veramente sulla sedia. Attenzione al femore. Ma sei una proprio irrispettosa totale. Ma dove t'ho pescato? Ma un po' di rispetto. È stato un momento di disattenzione. Va bene. Hai lasciato entrare il nemico in casa. Se hai bisogno di badante, Ratko. Ottimo. Una mia cugina. Ah, una tua cugina? Sì, sì. Oh, ottimo, Ratko. Grande. Va bene. Questa non muore di infarto. Questa tiene, vedi. Piega a due, come uno portafogli. Va bene, Ratko, caro amico Roma. Oh. Oh. Che cosa ci vuol dire? Poi sono felice perché quest'estate andrò a vedere Croazia e Mondiali. Ah, vedi, me lo fai, è arrivato triste, adesso è già felice. Ma sì, dai. No, sono felice perché finalmente ho messo a posto mia posizione. Sì, mi sono aperto un'attività. Bene. Mio negozio, è tutto mio, piccolo, niente di che. Tutto in regola? Sì. Io ho chiamato cose di altre case, negozio, è una bella ma cosa. Ma come cose di altre case? Cose di altre case. Ma è così, sono venire. Cosa vuol dire? Ma Ratko, ma come ci permettiamo qua? Ma è una battuta, si titolo, è così. Guarda che tutto a posto, tutto in regola, anzi. Sì, insomma, io un controllino. Malpensante. Ho già avuto visita di finanza, ho preso 5.000 euro di multa per i vostri controllini. Si vede è per colpa di vostra lingua che non è chiara, questo è. Ma perché? Ma perché io pensavo che libro inventario si chiamava così, perché uno scrive che cazzo che voleva, e stavo sveglio di notte a dire cosa scriverò sul libro inventario. Posso scrivere ogni giorno la inventario cosa. Non vuol dire che si inventa. Capisci, ma vostra lingua non funziona per uno straniero. Inventario, mi facevo disegni con i ricerche. Effettivamente c'è un problema di traduzione, diciamo. Poi anche là per poi controllare hanno messo tutto sotto sopra, perché ho fatto uno casino. Però facendo casino mi hanno fatto scoprire che con negozio faceva parte un magazzino di 15 metri quadrati, che io neanche non sapevo faceva parte del tuo negozio. Ho detto, vedi Ratko, vedi, questa è fortuna. Però ho detto, adesso tu sei imprenditore, devi sfruttare questo posto. Ma non sapevo cosa potevo farcere, no? E cosa c'è fatto? Poi una mattina stavo facendo babba davanti a specchio, mi ho guardato e ho detto, Ratko, tu quando sei arrivato qua eri pieno di freddo, pieno di fame, col pezzo a culo. Però piano, dopo passo ti sei messo a posto. Allora se tu uno poco di cuore, Ratko, tu devi pensare anche a quelli poveri che vengono da lontano come te. Caro amico mio, in questo magazzino dei 15 metri quadrati ho messo 60 cinesi che mi lavorano 18 ore al giorno. Ma come? Fanno pupazzetti del vetro per Murano. Ma è una vergogna, ma non abbiamo l'indirizzo di questo. Ma questo è sfruttamento. Ma che sfruttamento? Guarda, sono anche molto bravi, lavorano. Oddio, prima i pupazzi sbagliavano perché friggevano, ma dopo hanno imparato. E questo Ratko, è il problema dei cinesi. Dai, il cinese è brava persona, però frigge tutto quello. Ma noi che l'integrazione, ti abbiamo ospitato qui. Ma lo so, per questa gente frigge troppo. Loro, anche i defunti, non cremano mica, loro friggono. Tu quello che trovo friggono. Ti hai mai andato in ristorante cinese? Sì. Allora, ma il cuoco cinese, tutto quello che arriva in cucina e si muove, sì, lui frigge. Tu porti il ventilatore che ha due movimenti, lui guarda due volte e ti frigge anche quello. Non è male. Ma non interessa che sia animale che vola in cielo, che sia animale che nuota in mare o che ti scodinzola in giardino, lui frigge. No, sì, non diciamo sì, questa cosa vera, che non è vera. Questo è un luogo comune. Ma che luogo comune? Come i rom. Ma no, è vero. Sai poi cosa scrivono sul menù? Pollo. Tutto è pollo per cinese. Tutto quello che si muove è pollo. Anche il ventilatore. In pastella. Tutto è pollo. E poi il problema non è neanche tanto quello che mangi, che dopo due ore che tu sei dentro, dopo due ore tu puzzi di fritto anche in fotografia. Questo è il problema. Dopo due ore è tuo fegato che in ginocchio ti chiede una cirrosi epatica per avere una morte dignitosa. Allora fai cosa più logica, no? Corri da cuoco cinese, chiedi a lui conto. A lui questo è un popolo gentile, educato, ti fa sorriso, inchino e ti dà conto. Certo, prima frigge anche quello cazzo di conto, poi te dà conto fritto. Ma Daniele Cela aveva altri spunti qua di nuove trasmissioni che potremmo lanciare come... Ma ne abbiamo una molto bella che per gli appassionati di enigmistica. Sì, io sono un appassionato pure, oltre alla tomba. Ragazzi, sì, che poi la tomba, che vita, molto molto che però la tombola non è enigmistica. No, dico, ma oltre alla tombola l'enigmistica, okay. Cioè ragazzi, datele la vestaglia, la pipa, e le pantofole di Benvenuto. Allora praticamente è un'enigmistica, la chiama enigmistica for dummies, cioè per quelli che insomma principianti, per i principianti. Per te Alessandro, non per me. Tipo c'è il da risolvere alcune cose classiche, tipo i giornali della settimana enigmistica, no? Che conosciamo tutti. Questa è l'enigmistica for dummies, sono dei giochi tipo unisci il puntino. Poi c'è Labirinto Dritto, che è una cosa così. Sì. E poi molto bello, un Lecca le caselle nere. Abbiamo queste cose qua. Lecca le caselle nere. Insomma, sono dei vari giochi che sono stati esclusi dalla settimana enigmistica e noi ma guarda un po' perché li abbiamo esclusi. È strana questa cosa. Non servono perché. Per ripartire da zero, no? Per chi vuole cominciare. Assolutamente, chi ha avuto magari subito un trauma e vuole ripartire, certo, una fisioterapia per persone che hanno avuto uno shock. Sì. Perfetto. Poi non lo so, abbiamo sempre rimanendo nell'ambito dei giochi, non so, molti di noi, almeno per chi è della mia generazione, si ricorderà Giochi senza frontiere. Come no? Ecco. Popo. Queste squadre, cioè europee. Gennaro Olivieri, Guido Pancaldi, cioè, mai avuto frontiere io. E Firouz, noi abbiamo fatto questo, vogliamo riproporre questo tipo di format che ebbe molto successo, insomma, tanti anni fa, una trentina d'anni fa, ma un po' cambiato, un po' più figlio, specchio dei nostri tempi, che è Giochi senza passione. Così, squadre che non hanno voglia di fare niente, che non si impegnano troppo. No, vai pure avanti tu, a me non interessa, guarda quelli che stanno vincendo molto, cioè con bene. L'amarezza tipica di un Manera, insomma, con l'amarezza infatti che Guido, invece che Guido Pancaldi ci sarà Manera che fa under tra poi fischierà senza riuscirci, così. Vabbè, adesso magari ne vedremo altri, però attenzione perché ci ha raggiunto un personaggio un po', Veronica, non so se tu sei appassionata del genere, io no, lo dico, ma insomma abbiamo Renzo che è venuto qui nello studio, sì? A trovarci, che è uno scambista di coppia. Eh beh, io adesso per smentire l'immagine di me con la pipa sul divano a fare la settimana enigmistica potrei dirti, ah Renzo, beh attenzione. Renzo, curioso, saluto tutto il pubblico di Radio 24, sono Renzo, scambista di coppia, però con mia moglie Giuseppina abbiamo anche un lavoro normale, un mobilificio in Brianza, Il Tronchetto. Il Tronchetto. Facciamo mobili tutti i tipi, impiallacciato, truciolare, medio denso, multistrato, tranne Massello. Perché Massello non si fa più. No. Ogni tanto viene qualche cliente che vuole qualche mobile in Massello, allora io e mia moglie lo guardiamo, poi guardiamo tra di noi e alla fine diciamo Massello non si fa più. Ne abbiamo solo un pezzo che teniamo in un tabernacolo come reliquia, risale al decimo anno anti-Ikea. Perché ormai si fa tutto impiallacciato, truciolare, medio denso. Il lavoro comunque va bene perché facciamo tutto in nero. L'ultima fattura, sì. L'ultima fattura l'abbiamo fatta 3 anni fa a un dentista che poi si è messo a piangere perché nella vita non le aveva mai viste. Dall'emozione. Però in Brianza ci siamo costruiti una bella casa tutta arancione, dentro e fuori. Salutiamo tutti i dentisti. Dentro abbiamo fatto le riproduzioni in gesso dei personaggi storici d'Italia, Garibaldi, Mazzini, Maria De Filippi. Invece in giardino abbiamo i nani da giardino, ne abbiamo 47. Abbiamo fatto appositamente fare anche un brontolo parlante. Quando è in giardino dice portatemi dentro che fuori c'è umidità. Quando è in casa dice portatemi fuori che sono allergico agli acari. Io questo lo vorrei, poi magari ci mettiamo d'accordo. Quando è in negozio dice Massello non si fa più. Ah, ecco, anche lui sto. Sì. Abbiamo anche una figlia adolescente, Chanel Brianza. Anche Chanel Brianza. L'abbiamo chiamata in questo modo, una brava ragazza. Proprio il nome. Il problema è il secondo nome. È che si è fidanzata con un nostro lavorante negro di colore nero. Nero di colore nero, sì. Dispiace non tanto per la persona quanto per il colore, perché così nero si staglia troppo sull'arancione della casa. Se lo sapevo prima la casa la faccio di un colore diverso, adesso ridipingerla costa troppo, perciò ho ridipinto il lavorante. Però. Quel colore? Sì, adatta al nero, marrone. Perfetto. Comunque la vita procede senza intoppi. L'unico problema è che ho perso la fantasia sessuale con mia moglie. Ma come? Per ritrovarle ho provate tutte. Le ho anche messo addosso della panna. Solo che non sapevo che prima andava montata. Gliel'ho messa addosso liquida. Si è rovinato il materasso ortopedico. Adesso la usiamo per i nani col mal di schiena. Solo che Brontolo si lamenta, dice è troppo umido. Certo. Allora per combatterla noi una volta alla settimana il sabato andiamo su al club privé Orchidea Selvaggia di Bellinzona. Perché è questo che ci interessava. Orchidea Selvaggia di Bellinzona, Svizzera. Scrivo. Per andare io mi vesto con la canottiera, per andare lì io mi vesto con la canottiera a rete e la maschera da cano, che mi dà uno sguardo molto sensuale la maschera da cano. Bello, sì. Mia moglie invece ogni volta cambia. L'ultima volta si è vestita con body aderente leopardato in finta pelle taglia 56. Calze a rete tenute su da reggicalze in truciolare attaccato ai cuscinetti adipose con 2 tasselli del 12. Sul reggicalze scritta che davanti dice yes we can, dietro Massello non si fa più. Siamo arrivati al club privé col nostro SUV metallizzato. Prima di arrivare abbiamo fatto una consegna a Como Monte Olimpino, una libreria in rovere sbiancato. È sbiancato quando ha visto mia moglie vestita così. Abbiamo scoperto che la libreria aveva ordinata Frate Cionfoli. Ma come, frate Ciocco? Abbiamo portato su anche lui al club privé. No, ma non è vero, dai, l'ex frate Ciocco. Ci hanno fatto entrare. Prima abbiamo bevuto qualcosa. Io ho preso un long drink. Mia moglie invece ha preso un Negroni, come auspicio. Certo. Poi siamo andati nella dark room. Una stanza tutta buia dove non si vede niente. Chiunque può accoppiarsi con chiunque. E che è successo? È bello. È bello. Solo che alla fine, quando non riacceso la luce, ho scoperto che mi ero accoppiato con frate Cionfoli. No. Frate Cionfoli si era accoppiato con mia moglie. Questi sono i rischi. L'ho capito perché gli sono rimasti in mano i tasselli del 12 che bloccavano i cuscinetti adiposi. E dispiace non tanto per la moglie quanto per i tasselli. Certo. Perché perso una moglie se ne trova un'altra. L'unica cosa che non si fa più è il massello. Vabbè, Renzo. Ma il massello non si fa più, non sarà che come frase la eccita? Magari può usare quello. Sono venuto anche per trovare qualche nuova avventura, quindi se qualcuno fosse interessato mi può contattare al mio mobilificio in Brianza. Va bene. Magari poi la chiamo io, sì, lasci il contatto. Sì, oppure scrivete una mail a funamboli@radio24.it. Noi magari non possiamo dare proprio l'indirizzo in maniera così. Se voleste andare a provare. Facciamo una cosa tutti insieme con i nani da giardino. No, dai, guardi, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Ma è possibile farlo anche in massello? Lascia massello fare. Massello non si fa più. Lascia fare, Veronica. Funamboli di Capodanno. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Ecco, invece i Black Eyed Peas dovevo andare a vederli in concerto a Parigi. Tutta vita, Stavo per comprare i biglietti per fare una sorpresa a mia moglie, a Francesca, e poi però coincideva con la data di un matrimonio a cui non potevo mancare e non sono andato. E me ne sono rimasti qui, insomma, i Black Eyed Peas a Parigi. Quando era? 900? No, ma che 900? Smettila. Non lo so, dai, sarà 7-8 anni fa. E vabbè, dai, lo speciale dei funamboli è giunto quasi alla fine, siamo all'ultima parte. Cara Veronica, ci avviciniamo. Potevamo farci mancare l'ingresso. Oh, è già in piedi, porca miseria, Battista. No, non me lo dire, vabbè, ma anche oggi. Anche voi che avete sempre da ridire sulle persone per bene che lavorano, capisci? Poi si mette in piedi. Ma perché anche alla fine dell'anno è dovuto venire, mi scusi. Anche perché bisogna contrastare il vostro buonismo. Ma non va bene sempre anche, che da quei buonisti, da quello del Mina, ma anche in l'altro, radio, no? In radio, se sta in piedi non anche si te vede. E l'altra là di Roma, tutte e due buonisti che non capisce veramente come funziona il mondo delle aziende che lavorano. Ma solo perché abbiamo ospitato un Rom nelle due speciali. Il buonismo, la radio 24 è la radio del buonismo, è la radio dei zingari, non capisci? Vabbè, guardi che l'abbiamo messa anche una sigla, Battista, così è contento. Senti qua che bella. Angolo del populista. No, è populista. E noi che dai te caso erano usare Mina? No, è la sigla. Perché io e quella gente che lavora, che va in giro, e lo Stato deve pagare le tasse per cosa? Per dare le case ai zingari, ai negri, a extracomunitari, Ratko. Non mi piace quel come Ratko, no, capisci? Ratko, cos'hai anche da dire contro qualcosa? No, niente, se hai una figlia posso frequentare, così ci conosciamo meglio. Senti anche com'è il provocatore. Vai a cara casa extracomunitari. No, faccia un passo indietro, Battista. Io, no, niente contro extracomunitari, diamo anche le case ai negri. Prima però devono diventare bianchi, si devono adeguare al paese che li ospita. Neri. Anche perché io se vado a Africa col sole divento nero, ma l'africano che ne è qui non diventa bianco con la nebbia, capisci Mina? Mamma mia che squadra. E poi oltre alle tasse ho altre spese che devo sostenere, devo mantenere la mia escort, la Samantha, la tigre da Cavaillon veronese. Perché non posso andare in giro con mia moglie. Mia moglie ormai è impresentabile. Mia moglie ha la cellulite anche su comodino, capisci Mina? Quando mia moglie va dall'estetista. No, anche che ironisi, che hai da ironisare anche quella di Roma, no? Scusi, tanto gentile, tanto onesta, capisci? Scusi. No, dicevo, quando mia moglie va dall'estetista, poi l'estetista deve andare allo psicologo. L'unica cosa buona è che si crea un indotto del lavoro, no? Capisci? Infatti, allora, sono tutti contenti, no? Mia moglie ho conosciuto tanti anni fa in una discoteca, era lì in un angolo, mi sono avvicinato e abbiamo cominciato a parlare. Alla fine ho capito che era l'angolo delle occasioni. Capisci, Mina? Capito, sì. Una volta quando andavo a letto con mia moglie, alla fine la guardavo e le chiedevo ti è piaciuto. Adesso quando vado a letto con mia moglie mi guardo e poi mi chiedo come ho potuto. È per questo che vado in giro con la Samantha, la tigre da Cavaillon veronese. Samantha. La tigre da parco che si tiene in forma tutti i giorni. Va a correre nel parco la Samantha, va a fare yogi nel parco. Yogi va a fare. Cos'è che va a fare? Ma sei ignorante, Mina, va a fare yogi nel parco. Ma che quando la Samantha va a fare yogi nel parco, i pensionati per guardare lei quasi quasi smettono di guardare il lavoro in corso. Ah. E i pensionati guardano la Samantha e viene l'infarto. Infatti la Samantha è stata anche contattata dall'INPS. Ha detto vieni a fare yogi nei parchi di tutta Italia che risparmiamo sulle pensioni. Ah, perché viene infarto i pensionati. Capisci, Mina? Capisco, capisco. Non che sei qui a fare i buonisti. Questo è... Allora per risparmiare sono andato a produrre all'estero, alle isole Samoa. Samoa. Ma che Samoa è lontana, sono 170-180 ore di volo. Quando arrivi non ti ricordi neanche più perché sei partito. Capisci, Mina? Ho conosciuto donne che sono rimaste incinte durante il viaggio per Samoa e hanno partorito prima di arrivare. E in più con tutti gli scali che fai rischi di perdere bagaglio, ho perso più di 200 bagagli, mi è venuta una malattia, ansia da perdita bagaglio, si chiama sansonite cronica. E anche il viaggio no, poi è di quei costosi, però ho trovato una compagnia economica, si chiama Fly Down Air, che è costosa, però è pericolosa. Si capisce che è pericolosa perché quando comincia la discesa non c'è la voce del pilota che dice abbiamo iniziato discesa verso Samoa, si prega di tornare ai propri posti. La voce dice abbiamo iniziato discesa verso Samoa, si prega, basta. Punto. Ma perché sono andato a Samoa, Mina, buonista? Che ne so, perché è andato a Samoa? Perché i lavoratori di Samoa non è come i lavoratori italiani che pretendono lo stipendio tutti i mesi, le ferie giusto, pagate la tredicesima, ma scherziamo? No, a Samoa, tredicesima, la diamo una ogni 13 operai. Questa è serietà. Ah, complimenti. Questa è meritocrazia. Ah, sì. Poi non è come i giovani italiani che vogliono studiare. La cultura è dannosa, quei che vogliono studiare per tutta la vita è dannosa, e te lo dimostro. Leopardi ha scritto la poesia del passero e anche le altre, è morto a 30 anni. Jerry Calà è tutta la vita che dice cazzate e sta ancora benissimo. Capisci, Mina? Capisco. Vabbè. E allora, per salutarvi, dico che l'unica cosa che conta nel mondo del lavoro è la creatività. Infatti noi a Samoa stiamo producendo un nuovo prodotto che lanceremo sul mercato e avrà grande successo. È una nuova macchina del caffè per uomini single, si chiama Caffè Super Escort. Ha le forme di una femmina, quando esce il caffè parla con voce di donna e dice sto venendo. Poi se fai un caffè ristretto dice ancora, se fai un caffè troppo lungo dice basta, se fai un caffè così senza troppe cose interessanti dice andiamo al centro commerciale, perché nella vita bisogna essere creativi altrimenti il mercato ti strangola, ti soffoca, ti strigola. Parole di Battista da Cavaillon veronese. Grazie Battista. Battista, prima di andare, scusi, che faceva ragazza. Samantha nel parco? Va a fare yogi nel parco. Grazie. Un momento. Va bene il nostro Battista. Ma abbiamo un altro Daniele Ceva, abbiamo un altro paio di format televisivi che vogliamo lanciare. Attenzione, non rubateci le idee, però, autori televisivi. Sì, no, che poi abbiamo il copyright, sono tutte registrate. Ma infatti, non le diciamo troppo in giro. No, sono tutte depositate. Allora vi do questo: psicopatici nello spazio. Bello. Psicopatici sono una ventina di psicopatici sulla stazione spaziale internazionale. Sì. Bello, io andrei. Ecco, dalla Terra vengono mandati degli allarmi in questa stazione spaziale internazionale, quindi è molto interessante vedere con delle telecamere questi psicopatici che si agitano nel vuoto, perché ovviamente, e ai quali sono stati dotati di questi ansiolitici che però hanno delle confezioni difficilissime da aprire, quindi aumenta l'ansia dell'ansio. Bello questo secondo me funziona. Io secondo potrei me provare ad andare, sì. Ecco, magari tu vorresti partecipare concorrente, ma perché sei psicopatica o perché così per provare? Certo, altrimenti non mi sarei candidata. Un pochino psicopatica. Poi abbiamo questo che insomma, che terroristi poveri. Cioè sono dei terroristi che non hanno i soldi per compiere gli attentati, così rivendicano, che ne so, degli incidenti domestici. Si rompe un piatto, telefono, siamo stati noi. No, guardi, è stata mia moglie. No, no, si fidi, siamo stati noi. E pretendono, ovviamente. Pretendono di aver ragione, insomma, di creare del terrore. Però, è un sistema, secondo me, già un po' in voga. Comunque, secondo me, qualcosa succede. Speriamo. Ratko, noi, come vede, l'abbiamo invitata. Adesso, quando faremo il prossimo speciale, mentre Manera cigola qua, dobbiamo. Certa età. Ma non lo possiamo ungere, Manera? Oliarlo un po'. Oliamolo ma cos'è un po'? Il gomito? Cos'è il ginocchio? È la sedia di Radio 24, che è una sedia vecchia. Bisognerebbe buttarla via, essendo a fine anno, e sostituirla con una nuova. La tua sedia Radio 24 è traballante. io sono felice. Questa è una metafora proprio, eh? Sì, sì. Ratko è felice. Sì, perché finalmente oggi ho preso il vero passaporto italiano. Sì, non so di chi era, su un cruscotto di una macchina. eccolo lì. Poi però adesso comune. Sono diventato cittadino italiano anch'io. E sì. Devo dire che questo nostro bel paese mi piace tutto. Io tutto. Qualcosa che non mi piace anche a me, per amor di Dio. Troppi stranieri. Troppi. E io come italiano questo devo dire, troppi. Io sono stanco che ogni volta che vado in giro con macchina, ogni volta arriva uno che mi vuole lavare vetro. Che cazzo lavi vetro? Non lo vedi che macchina è rubata? Lascia. Io sono stanco quando vado con mia donna al ristorante, io voglio stare tranquillo, sai, una bella poca di intimizia così, uno no, ogni volta arriva questi uomini, io non so neanche da dove vengono, di India, di Pakistan, di Sri Lanka, non so, ogni volta col mazzo dei fiori così, che vai, prego signore, compra rose per tua donna, ma non voglio fiori! Ma lo vedi che è ancora viva? Allora basta, chiudiamo, cancelli d'Italia, via tutti, fuori di male. Mi hanno anche detto, dice, ma tu sempre dici di chiudere i cancelli d'Italia, ma per una volta invece dei cancelli, infatti. Buone feste, perché non chiudi un occhio? Ma tu poi sei venuto così? Perché non chiudi un occhio? Perché da mie parti quando un uomo chiude un occhio non è perché ti dà una mano, è perché sta prendendo mira. Quindi è pericoloso. E quindi è pericoloso. Va bene, no. Siamo quasi alla fine. Però insomma io sono contento di avere, sono contento di avere portato qui il nostro amico Rom. Grazie. Non l'abbiamo detto a Giuseppe Cruciani che veniva il nostro amico. Devo fare un appunto a voi, giornalisti. È chiaro che no. Attenzione, fa un per quello che scrivete. C'aveva il dito indice, guarda, sì, viene in Italia. No, perché voi scrivete quello che volete. Tempo fa ho preso. Tu scrivi su Pravda, vero? No? Sì, io ho aperto uno giornale, c'era scritto: 4 rom investono anziana signora. Perché 4 se guidava uno? Perché scrivete queste cose? È vero che fanno giostrai, ma non è che giriamo con macchine di Luna Park e non c'è il suo volante. Questa è una giusta osservazione. Ma sì, allora se era pullman cosa scrivono? 54 rom investono anziana signora. Uno legge e dice: che cazzo, tutta carovana è passata sopra vecchia. Dai. Uno dopo l'altro. Ratko, senta, me lo fa un autografo e me lo lascia qui per Parenzo, qui a Roma? Sì, che... più che volentieri. Sì, Parenzo, poi Parenzo, conosco Porre, ci sono andato in vacanza tanto tempo. No, David Parenzo, no, Parenzo. Ah, no, città. Città, David. Conosco David Parenzo, Vorrei lasciarvi con alcune cose, poche, perché stiamo per chiudere, di quelle che non ho più sopportato nel 2017. Parto dal quarto posto e poi subito arrivo al podio. Al quarto posto non sopporto più gli uomini che quando parlano sbagliano i congiuntivi ma pensano solo andare in palestra a farsi la tartaruga sulla pancia. Allora io dico, fatti un po' meno tartaruga sulla pancia, vai un po' meno in palestra e leggiti ogni tanto un libro, se anche il libro si intitolasse Come avere la tartaruga perfetta. Non sopporto più i politici che quando vengono eletti dicono sempre è colpa del governo precedente, magari sono eletti da 3 anni, stanno lì da 3 anni, dicono sempre è colpa del governo precedente. Io penso che il prossimo sindaco di Roma dirà è colpa di Romolo e Remo. Non sopporto più non i vegani, ma i cibi vegani travestiti da non vegano, perché se sei vegano mangia il tofu, il seitan, la quinoa, non mangiare lo spezzatino vegano, la cotoletta vegana. Io una volta ho mangiato il gelato vegano, non sono morto, ma quando sono andato in bagno il gelato l'ho rifatto uguale. Gelato, anche se un po' meno vegano. E non sopporto più i ristoranti alla moda dove i piatti non si chiamano col loro nome, non si chiamano spaghetti, tagliatelle, patatine. Ho visto un ristorante alla moda dove il minestrone si chiamava frammenti dell'orto sospesi in lacrime vegetali. Ecco, quando io penso che per vivere bene, anche nell'anno nuovo, basterebbero 3 cose. Un po' di passione, perché avere una passione per una cosa qualsiasi ti fa stare meglio nella vita. Un po' di inquietudine, perché l'inquietudine a volte fa stare male, ma è il motore, è la benzina della vita. Con quello che costa la benzina è meglio coltivare l'inquietudine. E poi un po' di responsabilità, di senso di responsabilità, perché non c'è più nessuno che dice è colpa mia. Diciamo tutti, lo fanno anche gli altri. Per esempio, perché timbri il cartellino e poi fai la spesa al mercato? Lo fanno anche gli altri. Perché dichiari 2.000 euro se ne guadagni 100.000? Lo fanno anche gli altri. Perché vai sulla corsia d'emergenza in autostrada quando c'è coda? Lo fanno anche gli altri. Perché vai a letto con tua moglie, lo fanno anche gli altri. E chi sono gli altri? Tutti stronzi. Noi facciamo le stesse cose, però abbiamo sempre un alibi per autogiustificarci. Ecco, io penso che con un po' di passione, di inquietudine e di responsabilità, di senso, di responsabilità, anche nell'anno nuovo forse potremmo avere qualcosa che non è la felicità, ma è qualcosa che assomiglia alla felicità, che è la vita. Buon anno a tutti. Oh, che bello concludere così. Allora, noi vogliamo ringraziare per questo speciale, oltre ovviamente Veronica, il sottoscritto Leonardo Manera, Daniele Ceva, che è venuto a trovarci. Buon 2018. Grazie anche a Luca Klobas Ratko. Buon 2018 Ratko, anche da parte mia. Grazie. Allora, voi ricordate che il meglio dei funamboli torna dal 2 gennaio, quindi da martedì. Beh, nel frattempo, amici, buon anno, buon anno, ma buon chiaro, anno chiaro, a voi e a tutti i nostri ascoltatori. Ovviamente da martedì rientriamo nel nostro orario dalle ore 9 del mattino. Speriamo davvero di avervi fatto un po' compagnia, un po' con leggerezza e con gioia e con il sorriso sulle labbra, cara Veronica. Speriamo che sia bello, che venga un anno bellissimo per tutti. E allora, dai, ci sentiamo. Voi state qui su Radio 24. Un abbraccio.